One, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Soundcheck. Il suono della musica di JJ Telesco. Buon pomeriggio da Gigi Telesforo, questo è il Soundcheck, questa è la prova del suono di Radio 24, puntata numero 52, 10 di dicembre, ci troviamo quindi a pochissimo dal Natale che sta arrivando e allora vorrei approfittare proprio per consigliare a tutti voi appassionati di musica di acquistare quest'anno come regali di Natale le ristampe di classici della musica, dal jazz alla musica classica, R&B, soul e pop, c'è di tutto nei negozi di dischi a prezzi veramente vantaggiosi, con 6 euro si comprano delle cose bellissime, delle pietre miliari della musica che senz'altro potranno fare felici i vostri amici e i vostri parenti, evitando così di acquistare stupidaggini come di solito fa a Natale il mio amico Renzo Arbore, che si presenta sempre con cose assolutamente inutili, matrioshke oppure forchette roteanti o vecchie clessidre che non servono a nulla. Prima o poi farò una mostra, un'esposizione con tutte le stupidaggini che a Natale mi ha regalato Renzo, anche se continuo a ringraziarlo sorridendogli. Ma tornando al Natale, tornando alla musica, credetemi, è un momento speciale, nei negozi di dischi troverete di tutto e di più e io per primo credo di aver approfittato qualche giorno fa facendo man bassa e facendomi così il primo regalo di Natale, me lo sono fatto da solo acquistando a 5,80 euro una ristampa di un classico di tutti i tempi con protagonista il bravissimo cantante Mel Tormé, uno dei miei preferiti, e l'album è bellissimo, si intitola Coming On Baby, una produzione del 1962 con gli arrangiamenti e la direzione di orchestra di due grandi maestri come Shorty Rogers e Klaus Ogerman, che nel 62 regalarono a Mel Tormé un sound ancora attualissimo. In molte produzioni contemporanee ritroviamo il sound presente qui in Coming On Baby. Per raccontarvi qualcosa di Mel Tormé, beh, cosa vi posso dire? Cantante eccezionale, voce duttile, personaggio molto elegante, timbro vellutato, è stato uno dei più grandi cantanti di jazz, specializzato anche lui come Ella Fitzgerald e pochi altri nell'utilizzo dello scheto, ovvero la sillabazione vocale che serve proprio ai cantanti per improvvisare come gli strumenti, e oltre a cantare, nella sua prestigiosa e lunghissima carriera è stato anche compositore, arrangiatore, percussionista, batterista, attore radiofonico, doppiatore, personaggio cinematografico, personaggio televisivo e autore di 5 libri. Insomma, diciamo che ha lavorato abbastanza Mel Tormé, sempre con grandissimo successo e sempre con il sorriso sulle labbra. Eccolo qui con Coming On Baby al Soundcheck di Radio 24, un grandissimo protagonista della storia della musica, purtroppo non molto conosciuto da noi, ma se acquisterete questo disco come regalo di Natale per i vostri amici avrete la possibilità di scoprire il talento di Mel Tormé qui al Soundcheck di Radio 24. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting here for you. I'm coming home now, real soon. You've been gone. Coming home, baby, now. You don't know what I'm going. I'm coming home, I know I'm overdue. Since you went away, expect me any day now, real soon. I'm coming home, come on home. Coming home, baby, now. You know I'm praying every night and everything is gonna be fine. Please come on. Coming home, baby, now. I want to feel you hold me tight. Expect to see me now anytime. When I'm in your arms, you're in my arms, I'll be fine. I'm coming home. I'm coming home, baby, now. You know I'm counting every day. I'm coming home now, yeah, yeah, yeah. Use your phone. I'm coming home, baby, now. And baby, let me hear you say. I'm coming home, you hearing what I say. That you're coming home. And I never will go away. I'm coming home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting at the door. They can't hold me back now, no more. All alone, I'm pressing on, baby, now. And pacing up and down the floor. Oh, hear me holler and hear me roar. Say you'll be with me. Gonna be with you evermore. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. Oh, baby, say you're coming home. That's what I say, I'm coming home. Something's wrong. The road is long, baby, now. Or to either ride or phone. I'm coming home and never more to roam. Baby, tell me you. Baby, I'm for sure coming home. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. Come on home. I'm coming home, baby, now. Mel Torme, Coming Home Baby, con gli arrangiamenti e la direzione di orchestra di due veterani, Shorty Rogers e Klaus Ogerman, una ristampa giapponese per l'Atlantic Records, album del 1962. Eh sì, purtroppo è una ristampa giapponese, infatti tutti i credits sono scritti in giapponese, ma fortunatamente c'è internet e quindi in internet si possono ritrovare tutti i dati originali di questo album immortale. Ottimo regalo di Natale che io vi consiglio qui al Soundcheck di Radio 24. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. Temptation. I can't resist. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay, yeah. Temptation. Ooh, temptation. Temptation, I can't resist. Temptation. anno dopo aver sposato Elvis Costello, la biondissima pianista e cantante americana Diana Krall nel 2004 registra proprio a quattro mani con il suo maritino questo album intitolato The Girl in the Other Room, qui nell'interpretazione di Temptation, brano scritto da Tom Waits. Infatti con The Girl in the Other Room Diana Krall abbandona un po' il filone degli standard di jazz, dei tributi a Burt Bacharach, delle canzoni di Natale, per realizzare un album con alcune composizioni originali scritte insieme al marito e l'interpretazione di alcuni classici non proprio vicini al mondo del jazz. Pensate che Diana Krall ha già venduto negli Stati Uniti oltre 6 milioni di dischi e in tutto il mondo 15 milioni di album. 15 milioni di album di jazz, una cosa veramente incredibile per un musicista di jazz, ma il suo successo lo si deve all'intervento strepitoso di un grande producer come Tommy Lee Puma. Infatti Diana Krall, che ha iniziato la sua carriera nell'85 come pianista cantante, lasciatemelo dire, di piano bar, magari negli hotel suonava gli standard di jazz, poi nel 93 incontra musicisti che sono diventati la sua ritmica stabile, John Clayton e Jeff Hamilton, per poi incontrare Tommy Lee Puma, che l'ha lanciata a livello internazionale realizzando per lei dischi importanti anche da un punto di vista economico, con grandi organici a disposizione, arrangiatori e direttori d'orchestra, a volte anche con un'orchestra sinfonica a sostenere il talento vocale e pianistico di Diana Krall. Da Diana Krall qui al soundcheck di Radio 24 passiamo a un altro protagonista della vocalità americana di oggi, anche lui cantante bianco, un maschietto, e si tratta del bravissimo, affermato e pluripremiato Kurt Elling, che ho conosciuto l'anno scorso durante l'edizione di Umbria Jazz Winter, persona devo dire molto carina, molto simpatico, molto disponibile, è un musicista anche che io stimo molto perché è un cantante preparatissimo che cura quasi in maniera maniacale la sua vocalità, è un baritono ma con ben 4 ottave a disposizione, quindi riesce anche a raggiungere il falsetto con grandissima facilità e quindi da musicista versatile interpreta molto bene il repertorio del jazz ma anche composizioni originali e qualcosa di avanguardia. Kurt Elling, lo dicevamo, pluripremiato, qui lo incontriamo non in uno standard di jazz ma anche lui con una sua composizione originale intitolata Where I Belong, da un album di qualche anno fa per la Blue Note dal titolo This Time It's Love. Kurt Elling al soundcheck di Radio 24. I hear the woman like a song, dancing down a long corridor, reminding me I belong where I am. I see the singing in the rain, the rhythm at my window pane, reminding me I belong where I am. There's a light in the silence of loving things, and when I look in my baby's hopeful eyes, it's like the sound just before every morning horizon light comes to life. Like a magnet of loving sound, turning me right side down, keeping my 2 feet firmly planted on the ground, reminding me I belong where I am. Thank you. silence of loving things. And when I look in my baby's hopeful eyes, it's like the sound just before every morning horizon light comes to life. It's like a magnet of loving sound, turning me right side down, keeping my 2 feet firmly planted on the ground, reminding me I belong. E alla prova del suono di Radio 24 arriva la voce di Dinah Washington, considerata the Queen of Blues, considerata una delle grandi voci nere insieme alla Fitzgerald, Sarah Vaughan e Billie Holiday, per la quale aveva una stima e un timore quasi reverenziali. Cantante molto versatile, con una voce molto penetrante, un senso dello swing perfetto e enunciazione cristallina dei testi, sono alcune delle caratteristiche dello stile di Dinah Washington, che in carriera ha cantato di tutto, dal jazz al blues, dal soul all'R&B e anche country music, realizzando gran parte del suo materiale discografico per la Mercury Records, per la quale ha realizzato oltre 440 registrazioni. In 20 anni, in poco meno di 20 anni di carriera, Dinah Washington diventò una vera stella, una vera leggenda, diventò ricchissima, tanto da investire gran parte del suo patrimonio proprio nell'acquisizione, nell'acquisto di gran parte dei jazz club e dei music club di Harlem. Donna particolarmente affascinante, con una predisposizione nei confronti degli uomini, ha avuto 7 mariti, tantissimi amanti, fra i quali anche Quincy Jones, che aveva più di 10 anni meno di lei, e proprio per questo motivo Dinah Washington diventò anche uno dei bersagli preferiti della stampa gossip di quel periodo. Personaggio duro, a volte spigoloso con gli impresari e i discografici, ma rimase sempre nel cuore dei grandi appassionati, anche perché quando saliva in scena Dinah Washington era un vero spettacolo, una donna bellissima, ci teneva tantissimo al suo aspetto fisico e infatti proprio per questo fece anche la fine che ha fatto, proprio per una overdose di pillole dietetiche e alcol, e quindi morì poche settimane prima del Natale del 1963. E quindi, come regalo di Natale, io vi consiglio anche di acquistare un The Best di Dinah Washington, dove forse troverete anche questo brano intitolato TV is the thing this year, la televisione è la cosa del momento oggi, un brano dove Dinah Washington racconta la sua esperienza con la televisione si rompe, chiama l'uomo della TV per ripararla e, girando poi sui vari canali, si accorge che i programmi presenti sono assolutamente stupidi e quindi forse è meglio tornare alla radio, e lo facciamo anche noi qui su Radio 24 con Dinah Washington, grande protagonista del nostro soundcheck. If you wanna have fun, come home with me. You can stay all night and play with my TV. TV is the thing this year, TV is the thing this year. Radio was great, now it's out of date. TV is the thing this year. Last night I was watching old Tom Mix. My TV broke, I was in a fix. I got on the phone, called my man, said get here daddy as fast as you can. TV is the thing this year. Oh, TV is the thing this year. Radio was great, but now it's out of date. And TV is the thing this year. Now he turned my dial to channel 1. I knew that this was gonna be fun. He turned my dial to channel 2. That station thrilled me through and through. He moved one notch to channel 3. I said, how I love what you're doing to me. He said, wait a minute, let's try channel 4. Just about the time someone knocked on the door, TV is the thing this year. Dalla voce di Dinah Washington, the queen of blues, a un'altra signora che arriva dal blues ma che è diventata col tempo una best seller nel jazz e nella musica in generale. La signora si chiama Cassandra Wilson, che nell'82 si trasferisce a New York e dopo aver suonato il pianoforte e la chitarra cimentandosi in un repertorio jazz a New York entra a far parte di collettivi di jazz contemporaneo come Steve Coleman con i suoi M-Bass Collective e dopo qualche anno abbandona il gruppo nel 1985 e registra il suo primo album da solista. Bellissima carriera quella di Cassandra Wilson, molto amata, molto seguita, una persona molto elegante e che vi propongo qui al Soundcheck con un brano intitolato Closer to You che troverete in un album della Blue Note dal titolo Thunderbird e album che vi potrete procurare nei negozi di dischi anche a un ottimo prezzo adesso che il Natale sta arrivando. A tutti voi buona giornata, buona musica e buon ascolto con Cassandra Wilson da GG Telesforo. How soft a whisper can get when you're walking through a crowd. I hear every word that you said. I remember that every day. I get a little bit closer to you. Just remember that when you were asleep, I got a little bit closer.